GR24, il sole 24 ore. Taglia la spesa pubblica, salvi i piccoli ospedali, il provvedimento esce dalla bozza sulla spending review. Malore per l'ex governatore della Campania Bassolino, le sue condizioni sarebbero gravi. Cuciniamo con gli avanzi come i nostri nonni, la crisi cambia il nostro menù e ci rende meno spreconi. Da oggi la scheggia di Renzo Piano domina lo skyline londinese. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Taglia alla spesa pubblica, al momento confermato il Consiglio dei Ministri per le ore 17, ma si profilano novità. Ne parleremo dunque fra pochissimo. Prima tre notizie di cronaca degli ultimi minuti e cominciamo con gli aggiornamenti sul caso della bimba di 11 anni di Revine Lago nel Trevigiano scomparsa ieri. Ci racconta tutto in diretta Anna Rita D'Ambrosio. Sì, le notizie sono molto buone perché la bimba è stata ritrovata proprio poco fa a Venezia. Il sindaco Battista Zardet aveva anticipato con queste parole la notizia, sentiamolo. Abbiamo una segnalazione che adesso il capitano in Carraro sta andando a vedere perché sembrerebbe che fosse stata ritrovata a Venezia. Voi avete rivolto anche un appello alle persone, quindi insomma l'appello ha dato un esito positivo, no? Che se qualcuno l'avesse vista di avvertire immediatamente. È tramite questo che probabilmente si è riuscita a trovarla? Sì, beh, senz'altro, perché noi subito ancora in tarda serata abbiamo divulgato le foto a tutte le questure, eccetera. Quindi è proprio il merito a questo che può essere stata individuata. Così dunque il sindaco, ed è proprio lei, è proprio la bambina di origine marocchina di 11 anni che era scomparsa ieri mattina. L'ultima volta l'aveva vista lo zio a Revine Lago nel Trevigiano. La sua assenza poi era stata segnalata ai carabinieri in serata dalla madre che, rientrata dal lavoro, non l'aveva trovata. La bimba era scomparsa, e questo ovviamente aveva insospettito, con una piccola valigia, una valigia da bimba di marca Hello Kitty. La bambina dunque Malak, ma detta da tutti Angela, è stata ritrovata poco fa. È tutto. Dunque una buona notizia, grazie ad Anna Rita D'Ambrosio. Questa che sto per leggere invece non lo è affatto: è in gravi condizioni Antonio Bassolino, l'ex governatore della Campania ed ex sindaco di Napoli. È stato ricoverato all'ospedale Loreto Mare di Napoli per una forte emorragia intestinale. Non è più agli arresti domiciliari Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia, naufragata al Giglio il 13 gennaio. Schettino era ai domiciliari dal 17 gennaio. Adesso avrà solo l'obbligo di dimora nel comune di Meta di Sorrento, dove risiede. E questa sera Medias diffonderà un memoriale di Schettino. Leggiamo alcune frasi. In quel momento una mano divina si è sicuramente posata sulla mia testa, scrive Schettino. Se avessi continuato su quella rotta avremmo colpito lo scoglio con la prua e sarebbe stata un'ecatombe. Stabile nel 2011 la spesa mensile degli italiani, dice l'Istat, ma calano ancora i consumi a tavola. Meno carne, più pasta, meno avanzi nella spazzatura, più cucina del riciclo. La crisi cambia così la tavola degli italiani. Lo dicono i dati Istat, lo analizza un rapporto della Coldiretti. Se infatti è rimasta sostanzialmente sugli stessi livelli nel 2011 la spesa mensile degli italiani, in media a famiglia 2.488 euro, seppure con divari anche di 1.400 euro tra Lombardia e Sicilia e variazioni fino a 1.000 euro tra operai e professionisti, ad erodersi per molti sono gli acquisti destinati al cibo. Il 35,8% ha ridotto la quantità di prodotti da mangiare e in crescita sono le persone che comprano nei discount e nei mercati. Una contrazione che si è tradotta in un cambio di abitudini. Il caffè al bar sta diventando un'eccezione, si comprano invece più latte e biscotti e si fa colazione a casa. Così, come sempre meno, si butta quel che avanza in tavola. Invece si riutilizza come si faceva in decenni da dopoguerra, tirando fuori dai cassetti ricette dimenticate per fare di necessità virtù. Menù dei nonni anche nelle scelte, più 3% per gli acquisti di pasta, meno 6% per la carne. E, costretti dal risparmio, abbiamo riscoperto anche il rito di pane e pasta fatti in casa.

Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La vicenda Rai con l'elezione dei consiglieri dopo giorni di polemiche e discussioni. In diretta da Roma, Andrea Viali. Sì, superato lo stallo è arrivata la fumata bianca. La commissione di vigilanza Rai ha nominato i 7 membri del CDA di Viale Mazzini di espressione parlamentare. 4 sono in quota PDL Lega. Si tratta di Antonio Verro, Antonio Pilati, Luisa Todini e Guglielmo Rositani. 2 invece quelli indicati dal PD, Gerardo Colombo e Benedetta Tobagi. Infine Rodolfo De Laurentiis per l'UDC. La loro nomina, come dicevi, è stata preceduta da giorni di polemiche culminate ieri con lo scontro fra i presidenti di Camera e Senato. Fini, lo ricordiamo, ha contestato la decisione di Schifani di sostituire il senatore del PDL Amato, che aveva annunciato un voto diverso da quello del suo partito. Al suo posto è subentrato Viespoli di Coesione Nazionale, che oggi ha invece votato con il PDL. Viespoli, che subito dopo il voto ha poi anche provato a ridimensionare le polemiche fra Fini e Schifani. Sentiamolo. Di fronte alla mia richiesta, il presidente Fini ha avuto l'amabilità di rispondere dicendo: è una questione che deve risolvere il presidente del Senato, che deve intervenire attraverso la ridefinizione della composizione della commissione stessa in rappresentanza dei gruppi del Senato. Ed è quello che è accaduto. Questo cambio in corso invece è stato duramente contestato da PD, UDC, Futuro e Libertà e Italia dei Valori. Sentiamo il democratico Morri, poi la linea può tornare allo studio. Pesa come un'ipoteca forte sulla legittimità di questa elezione oggi la decisione del Presidente del Senato Schifani, in conflitto ci pare col Presidente della Camera Fini, su questa sostituzione di cui non si hanno precedenti nella storia parlamentare. E ringraziamo Andrea Viali. Noi passiamo dal mercato dei consiglieri Rai al mercato dei calciatori. Calciomercato, che passione! Nonostante il fair play finanziario e i richiami all'austerity, anche l'Inter si muove e pensa al futuro. Lasciato Lucio alla Juventus, Massimo Moratti ha rinforzato la difesa col portiere dell'Udinese Samir Handanovic, 27 anni, numero uno in grande ascesa, costato 11 milioni. In arrivo anche il difensore argentino Mattia Silvestre, anche lui 27enne, 10 milioni, pronto cassa. Soldi, soldi, soldi. E non li spende solo la Juventus, perché anche l'Inter, finora accusata di tirar solo la cinghia, in realtà ha già speso 40 milioni. Che potrebbero diventare 65 se andranno in porto gli acquisti di Gebi Mudingai, centrocampista, e Mattia Destro, bomber 21enne. Tornando al nuovo portiere, si crea però un problema, perché Julio Cesar ha ancora 2 anni di contratto. Sentiamo Handanovic subito dopo l'annuncio del suo arrivo a Milano. Sì, io volevo andare in una grande squadra, sono arrivato e sono contento. Uomo di poche parole ma di grande affidabilità, Handanovic dovrà vedersela quindi con Julio Cesar, che minimizza. Penso che la cosa più importante era avere rispetto tra di noi, basta, è un grandissimo portiere, lo stimo tanto. Vedremo come finirà. In genere la convivenza tra grandi portieri dura poco. Coppie che scoppiano, come tutti i matrimoni delle grandi star. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.